Siamo in collegamento con Giuseppe Cusimano di Ape Roma. Giuseppe, benvenuto su Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Ciao. A tutti. Diciamo un po' cos'è Ape. Allora, sì, con molto piacere. Allora, Ape Roma è una delle sezioni a livello nazionale, una delle 5 sezioni a livello nazionale dell'Associazione Proletari Escursionisti. In realtà la storia è molto, molto antica, perché l'APE è stata fondata a Lecco nel 1919 e tra alti e bassi, diciamo, ha attraversato tutti questi decenni per rinascere a Milano la prima volta nel 2012. Abbiamo una sezione storica, che è quella di Lecco, appunto, che ha tenuto un po' le redini della storia dell'associazione, e noi abbiamo fondato a Casetta Rossa, a Garbatella, la nostra primissima sezione romana nel 2015. Sì. Quindi già comincia a avere una sua storia, insomma, un paio d'anni di attività. E in cosa consiste questa attività, Giovanni? Allora, sì, noi abbiamo fatto per 2 anni, abbiamo avuto un gruppo informale di amici a cui partecipavano tante famiglie, tanti bambini della comunità di Casetta Rossa, e quindi organizzavamo delle uscite, delle semplici escursioni, delle passeggiate, organizzavamo anche 1 o 2 giorni in montagna con l'allestimento di una tendopoli. Abbiamo conosciuto Alberto Abbo di Monte, che è la persona che ha scritto e ha ripreso la storia dell'Ape storica scrivendo il libro Sentieri Proletari. Ce ne siamo innamorati in qualche modo e abbiamo deciso di fondare questa associazione. L'impianto è rimasto lo stesso. Noi siamo un'associazione che organizza trekking, sono totalmente gratuiti, viviamo di un semplice tesseramento del valore di circa 10 euro l'anno e di una copertura assicurativa, perché siamo affiliati alla Federtrek, che è un organismo riconosciuto a livello nazionale. Sì, organizziamo dei trekking, siamo, diciamo, sulla carta un'associazione culturale, quindi quest'anno proprio sono nati questa serie di incontri dal titolo Pappa Reale, dove invitiamo degli autori a raccontarci la loro esperienza, a parlare di montagna, insomma cerchiamo di abbracciare il vivere all'aria aperta, il mondo outdoor dal punto di vista sportivo, organizzando escursioni, ma anche poi andando a conoscere più a fondo le persone che vivono la montagna in diverso modo. Sì, sì. Allora, Giuseppe, in questo periodo avete lanciato una campagna di crowdfunding, ci racconti un po'? Allora, sì, esatto, da circa 1 anno noi eravamo alla ricerca di un posto in montagna per riprendere anche un po' il vecchio sogno, che era quello dell'Ape, di costruire un posto tutto nostro da poter gestire. Le nostre camminate ci hanno portato fin da subito a concentrarci nella bellissima zona della Sabina. Siamo entrati in contatto con i gestori di questo casale abbandonato e in disuso da circa 7 anni, e ce ne siamo subito innamorati, ci è piaciuto. Parliamo di un complesso di 3 strutture che sta dentro un bosco appena fuori Poggio Catino, quindi provincia di Rieti, nel cuore della Sabina. Abbiamo fatto una proposta al comune, abbiamo conosciuto il sindaco, l'amministrazione comunale. La nostra proposta era quella di gestirlo e di rimetterlo naturalmente in sicurezza e funzionale per le attività che vogliamo svolgere. E l'amministrazione è stata ben contenta di trovare delle persone che volevano spendersi in questo, che, badate bene, può essere anche un'iniziativa controtendenza, cioè ormai nessuno si occupa di dare vita o ricreare qualcosa dentro un bosco dove vanno solo a camminare delle persone o ci passi giusto perché devi andare un'altra parte. Noi vogliamo fare un rifugio, noi vogliamo che quello sia il rifugio della Roma, però per farlo abbiamo lanciato questa campagna di crowdfunding attraverso Banca Etica e il portale di produzioni dal basso, e dal titolo Costruiamo l'alveare, un rifugio per l'Ape Roma. Senti, allora, io a questo punto ti chiedo i riferimenti per contribuire e poi se ci sono già i prossimi appuntamenti per camminare. Allora, assolutamente, allora, Ape Roma la trovate nella nostra pagina ufficiale di Facebook, Ape Roma, Associazione Proletari Escursionisti, Sezione di Roma. Naturalmente vi rimando la nostra casa madre, il rifugio urbano, che è Casetta Rossa, con il suo sito. Per partecipare e darci una mano alla raccolta dei soldi necessari al rifugio, basta andare sul portale Produzioni dal Basso e cercare il riferimento è costruiamo l'alveare un rifugio per la Peroma. Noi siamo felicissimi e vi ringraziamo per questo spazio che ci avete dato, perché è veramente importante e è un sogno che vogliamo a cui vogliamo dar vita, quindi ringraziamo fin da subito chi ci vuole dare una mano. Bene. E prossime date? Allora, prossime date, proprio questa settimana si riunirà la riunione degli accompagnatori. Avevamo un'escursione sabato, però purtroppo a causa del maltempo abbiamo dovuto annullarla, però insomma ci seguite sulla pagina Facebook o sul sito e lì trovate tutte le informazioni. Benissimo. E le prossime uscite ed escursioni con l'ape. Bene. Allora Giuseppe, un abbraccio e ci si vede per i prossimi cammini. Grazie mille alla Donda Rossa e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie Fede. A presto, ciao. Ciao, ciao, grazie, ciao.